so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica. Ma che dovresti uscire anche senza soldi. Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste. Sì, sì, le trovo giuste, le trovo. Radio Onda Rossa trasmette dal 1900. Buonasera, questa è Radio Onda Rossa e oggi è 5 febbraio del 2020, inizia prove tecniche di trasmissione, avete sentito lo spottino poco prima di questa sigla che riguardava il radioabbonamento, 30.000 euro per 1.000 ascoltatori, quindi 30 euro ciascuno, un radioabbonamento che si può attuare tramite crowdfunding e altre modalità che si possono trovare sul nostro sito www.ondarossa.info. Trasmissione questa di questa sera che domani andrà chiaramente con il podcast e con la playlist sia sul sito della radio e sia sulla pagina Facebook prove tecniche di trasmissione /disorder. Si saluta Maya e Nicola Locci dalla Sardegna, Isetual dai dintorni di Milano, Lorenzo qui a Roma come il medico della peste, Federica da Ravenna, Giovanni Lisi da Taranto, Taranto Bari, ce lo dirà lui, ho un dubbio. Comunque Antonio Zovet invece sicuramente da Firenze, Antonio Zovet come omicidio, il buon camper, boss della Formaldehyde Records. Francesco dalle Marche, un saluto a lui, Lucia in quel di Udine, Lucia come Lupsi. Insomma, un bel pezzo d'Italia e non solo qui a Roma, dunque c'è anche la Val d'Aosta con Jean-Claude Berthaud che salutiamo. Ebbene, andiamo ad iniziare immediatamente con intanto Giovanni Lisi, lo salutiamo, di Cordes Cinti Serpente da Bari, ecco qua, mi corregge. Iniziamo con l'ultimo lavoro per gli Swans, questo Living Meaning, un album che in realtà in qualche modo era stato anticipato da What Is This in una versione completamente acustica, molto molto scarna. Gran parte di quelle tracce erano lì, qui sono state riprese e ampliate nell'arrangiamento e il risultato finale è direi soddisfacente come molti degli album degli Swans. Questo è Some Fucker. Surrender. We'll be right back. Dunque, ultimo bellissimo lavoro per gli Swans di Michael Gira, si chiama Living Meaning. E quindi anche lui, un 2019 particolarmente attivo. Ricordiamo What Is This, che anticipava questo ultimo lavoro. A tratti acustico, a tratti più intenzione, come questa Sunfucker, soprattutto nella prima parte, per poi liberarsi, diciamo, tra virgolette, nella seconda parte, verso la fine. Lontani sono magari i tempi del noise iniziale, ricordiamo la metà degli anni Ottanta, poi la lunga pausa e la ripresa, dove si univa indubbiamente la tensione sotterranea degli inizi, ma veniva esplicata, espressa, con una sensibilità decisamente più psichedelica che a tratti, e più di tratti, diciamo, ricordava i Velvet Underground di Lou Reed, eccetera. La New York migliore, quella più malata nel senso buono del termine, loro, i Sony Youth e pochi altri. Intanto saluto anche Massimo Oders Mascheroni, Massimo Olla, Noisedelic Kid and Reverse, di quest'ultimi ascolteremo qualcosa più avanti, Marco qui a Roma, Fulvio Biondo di Solar Lodge, pezzo di storia della sperimentazione qui a Roma. Ricordiamo gli Swans in questa occasione di nuovo sciolti e riuniti con altri elementi. Il più famoso è Finn Puleo, e c'è anche la collaborazione di Ben Frost addirittura. Adesso lasciamo gli Swans e ci andremo ad ascoltare la prossima settimana il secondo CD di Living Meaning. Ci ascoltiamo adesso Istantanee, ultimo lavoro per Gabriele Gasparotti, uno dei talenti più interessanti in area ovviamente sperimentale qui in Italia. Lui viene da Massa Carrara e l'ho visto personalmente live sabato qui a Roma, dove oltre a manipolare strumentazione elettronica varia ci ha deliziato con un violino e anche con una violoncellista. Andrò a cercare il nome e ve lo dirò più avanti di questa violoncellista. Noi intanto ci ascoltiamo due estratti da questo Istantanee. Esattamente la traccia numero 7, che però si chiama Istantanee numero 9, e quella numero 8 che si chiama Istantanee numero 10. l'emergente Gabriele Gasparotti, che abbiamo scoperto in realtà con estrema razio un altro suo progetto dell'anno scorso che manderemo comunque presto, mentre Istantanee è più recente. Peraltro vorrei aggiungere che nel concerto che ho visto sabato scorso il nostro Gabriele cantava anche, e si è creata una situazione particolare, perché poi le atmosfere create si dipanavano tra indubbiamente kraut rock, la sperimentazione, ma c'era anche una, come dire, un retrogusto quasi prog, un po' anche alla Franco Battiato, devo dire, che ha reso il tutto ancora più sorprendente. Un approccio prog che appunto in estrema ratio assume un carattere più tangibile rispetto all'elettroacustica di Istantanee. Mi sono ricordato il nome della violoncellista, brava anche lei, che si chiama Benedetta Dazzi, che appunto ha accompagnato Gabriele al violino nel live che si è tenuto sabato scorso qui a Roma. Risalutiamo Nicola, naturalmente, di Stigmate Hexagonal. Nicola è uno degli affezionati che peraltro ha contribuito anche al crowdfunding con il radio abbonamento, per l'appunto, lui, Raffaele Pezzella ed altri, che nominerò prima o poi. Comunque già un numero, direi, interessante sta aderendo a questa iniziativa che scadrà a maggio. Altro ultimo lavoro unisce Massimo Olla e Simon Ballestrazzi in questo progetto dal nome Hidden Reverse. Anche qui una mostra di strumenti autocostruiti, il Dronin su tutti, e due vecchie volpi del calibro di Olla e Simon Ballestrazzi non potevano che fare un disco molto molto interessante. Un disco che si chiama Six Cases of Sleep Disorder, che esce per la Azot, una etichetta molto molto interessante. Questa sera ci ascoltiamo In That Liminal Space Between Contenting Realities. esempio di eccellente ricerca sonora da parte di Simo Balestrazzi e Massimo Olla. Tanti progetti a loro attivo e qui si uniscono per erigere queste sculture sonore così ombrose e inquiete. Effettivamente c'è del ritualistico, ma anche del free noise jazz, effettivamente. Quasi mantrico questo Hidden Reverse. Six Cases of Sleep Disorder, lo ricordo attraverso la Azot, etichetta forse di Vicenza, andrò a vedere meglio. Anche se potrebbe essere anche sarda, dato che c'è parecchia Sardegna anche in questo gruppo, sia da parte di Massimo sia da parte di Simon. E sono d'accordo anche con Antonio che tomografia assiale computerizzata non poteva essere assente nelle influenze di questo Hidden Reverse. Mi conferma Nicola, lo ringrazio, l'etichetta è proprio di Simon Balestrazzi e quindi è sarda. Simon Balestrazzi ce lo ritroviamo, guarda un po', con un altro progetto che andremo ad ascoltare immediatamente dal nome Daimon. Ci ascolteremo Remedies for a Foggy Day, un lavoro dell'ottobre del 2019 che esce invece attraverso la Norwegianism Records, etichetta in realtà olandese. I Damos sono, oltre Simon Balestrazzi, Nicola Quiriconi e Paolo Monti, anche loro fanno parte del Gotha, della scena sperimentale italiana. E da questo lavoro, non proprio lontanissimo da questa atmosfera, ovviamente, ci ascoltiamo a Morning Lines. Un saluto anche a Cristiano Bocci di Chemical Resistance che ci ha deliziato nelle scorse settimane con la sua musica. effettivamente ha del viaggio mentale questo lavoro di Diamond. Lo ricordiamo, Remedies for a Foggy Day, che vede l'unione di tre veri e propri talenti nel campo della sperimentazione ormai da molti molti anni: Simon Ballestrazzi, Paolo Monti, che salutiamo, e Nicola Quiriconi. Per Diamond credo sia il terzo lavoro questo per la Norwegianism Records, che però, a dispetto del nome, credo di leggere sia un'etichetta olandese. Belle queste stratificazioni sonore, effettivamente, questi incroci, questi intrecci. Salutiamo Lucia qui a Roma. E noi andiamo di talento in talento, però per un attimo lasciamo l'Italia, andiamo in Scozia, andiamo da un vero e proprio maestro che risponde al nome di Michael Bonaventure, che molti conosceranno, molti degli affezionati di questo spazio. In Tenebre Istrazione Organi, un ultimo lavoro che esce attraverso Late Tower Records, etichetta del buon Raffaele Pezzella, uno dei migliori esempi effettivamente anche qui di viaggio veramente interiore. Andremo un po' a galleggiare in altre dimensioni attraverso questa Giant Silver.